America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24. Buongiorno Simone da New York, Mario Platero. Violence against women and girls directly affects individuals. It also harms our common humanity. Ban Ki-moon, il segretario generale delle Nazioni Unite, ha partecipato un paio di giorni fa alla giornata mondiale dedicata all'eliminazione della violenza contro le donne. La data è stata scelta per commemorare le sorelle Mirabal, tre attiviste politiche domenicane brutalmente assassinate durante la dittatura di Rafael Trujillo nel 1960. Devo dire, le Nazioni Unite hanno veramente dato al mondo un momento di grande commozione e partecipazione, non soltanto rievocando la memoria di queste sorelle, ma rievocando il dramma di milioni di donne che in ogni angolo del mondo sono indifese e oggetto di violenza. Sentiamo l'ambasciatore italiano Sebastiano Cardi, che ha partecipato ai lavori. But it's not an issue that, you know, concerns women only. It concerns mainly, in fact, men, because violence in the 90% of the cases come from men. Ecco, il rappresentante permanente alle Nazioni Unite, l'ambasciatore Sebastiano Cardi, dice che la questione della violenza contro le donne non riguarda soltanto le donne, ma riguarda invece e soprattutto gli uomini, perché nel 90% dei casi i responsabili di queste violenze sono appunto uomini. Ecco, io spesso in questa mia trasmissione vi parlo di quelle che sono le intolleranze sia nei confronti dei deboli, del sesso debole, ma anche le intolleranze razziali. Oggi davvero voglio dedicare questa trasmissione così al risveglio delle nostre coscienze, anche perché in Italia soprattutto abbiamo avuto 128 donne che sono state uccise nel corso dell'anno. C'è anche un danno economico, ma è immateriale. Quello che conta è che ci sono delle donne che non sono protette. C'è stato il caso di Lucia Annibali, il presidente della Repubblica Napolitano le ha dato un'onorificenza di cavaliere al merito perché era stata sfregiata dal vetriolo. Insomma, i casi sono molteplici, ma se dobbiamo portarli a livello mondiale, a livello globale, beh, i numeri davvero fanno spavento. In alcuni paesi fino al 70% delle donne è vittima di violenza almeno una volta nel corso della propria vita, e ci sono fra le 400.000 e 1.600.000 donne che ogni anno sono oggetto di traffico per prostituzione, lavoro forzato, schiavitù. Oltre 130 milioni di donne hanno subito la mutilazione dei genitali. In America, negli Stati Uniti, uno dei paesi più avanzati del mondo, il costo della violenza domestica supera i 5,8 miliardi di dollari all'anno, 4,1 miliardi per cure mediche, 1,8 miliardi di mancata produttività. Torno a dire, c'è il risvolto economico, ma a noi interessa soprattutto il risvolto morale. 600 milioni di donne vivono in paesi dove la violenza domestica non è considerata un crimine. Le donne tra i 15 e i 44 anni sono più a rischio di violenza che di incidenti automobilistici, cancro, malaria, guerra. Ecco, di questo si è parlato alle Nazioni Unite, si è cercato nel contesto globale di arrivare a delle conclusioni. Il problema riguarda tutto il mondo, soprattutto l'Africa naturalmente, ma riguarda tutti e tutto il mondo, come vi dicevo. C'è stato anche uno spettacolo in cui sono state rievocate le voci di donne, di bambine, di ragazze trucidate, uccise. Una delle protagoniste è stata Angela Turner, che è una donna italiana che vive in America, che conosce ovviamente benissimo i due mondi, il mondo transatlantico, un'architetta e un artista, è con me ai microfoni di America 24. Buongiorno Angela. Buongiorno. Ecco, è stata una giornata importante, immagino anche sul piano emotivo. Una giornata molto emotiva, molto profonda, che ha fatto riflettere. Lei conosce l'Italia, lei conosce l'America. Come donna, qual è la differenza che vede tra i due paesi dal punto di vista della protezione, del diritto, della sicurezza della donna? Io credo e sento sulla mia pelle che la differenza è sostanziale. Devo dire con tutta sincerità che in America, negli Stati Uniti, mi sento protetta al 100% dalla legge, dalle istituzioni, e quindi vivo molto tranquilla da questo punto di vista. Devo dire che in Italia non ho la stessa sensazione, percezione, per niente. Credo che ci sia molto da fare per garantire alla donna una certa tutela e sicurezza, soprattutto anche dal punto di vista legale. It's not easy to identify someone after they've been at the bottom of the river for 3 days. In fact, in the hospital, it took them a long time to figure out who I was. Even everyone can know. Marina Abramovic, come vi ho detto, c'è stato anche uno spettacolo alle Nazioni Unite che ha cercato di dare sul piano simbolico un'idea di come queste donne possano soffrire, uno spettacolo tra l'altro curato, presentato da Serena Landini, perché l'Italia ha avuto un ruolo importante nell'organizzazione di questa giornata. Marina Abramovic rievoca la storia di un'infermiera che è stata uccisa, trucidata, mentre cercava di aiutare gli altri a fare del bene. She even told the costumers at the butcher shop that sooner or later he was going to kill me. Valeria Golino, un'attrice italiana, anche lei ha partecipato a questo happening. La sua storia era la storia di una donna che sapeva che il suo uomo voleva ucciderla, e non soltanto lo sapeva lei, ma lui continuava a dirlo in giro dappertutto. Era una donna africana, sono tutte storie vere naturalmente, e naturalmente è stata uccisa. Ecco, ho sempre con me Angela Costanza Turner. Angela, lei anche ha interpretato un ruolo, lei è un'artista. Chi era il suo personaggio? La mia storia è la storia di una bambina del Bangladesh di 10-12 anni, alla quale erano stati somministrati ormoni per darla alla prostituzione, e dopo questo percorso di prostituzione è stata soppressa, è stata addormentata, e alla quale hanno tolto i reni e il fegato. Questa bambina chiude gli occhi, si addormenta, dice: finalmente mi lasceranno in pace perché non c'è più nulla da vendere di me. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sui tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Seguiteci su america24.com, su Twitter, @MarioPlatero, ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, ho dedicato questa puntata alle donne, e alle donne voglio dedicare la canzone del giorno. John Lennon, Woman. Woman, I can hardly express my mixed emotions and my thoughtlessness. Da New York è tutto, Simone, ti ripasso la linea. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.